racconti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 10, 8 minuti, 30 secondi, siamo in diretta qua tutti i quattro compari dei conti della belva, oltre a Oscar Giannino che vi saluta, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio. E in questo sabato, San Gerardo, auguri a chi si chiama Gerardo, noi vi auguriamo come sempre questo inizio, metà mattinata, per fare i conti con il livello della vostra bile nel fegato e iniziare un fine settimana in cui riflettere su alcune faccende del dibattito pubblico italiano e insieme alle nostre opinioni che sono un po' corrosive, lo sapete, ma naturalmente confrontandoci con ospiti e cercando soprattutto da parte vostra di indurvi a mettere il ditino sul telefonino per chiamarci all'800240024 oppure per dirci come la pensate al 349-238-6666, oltre che su Twitter e su tutti gli altri account su cui ci potete raggiungere, e quindi per consentirvi di decidere dire la vostra questa mattina a Radio 24. Nel nostro studio c'è una temperatura più o meno, sembra di stare a Bora Bora sotto il sole, e spero che invece a casa vostra sia un po' più fresca la faccenda. Alcuni argomenti per alzare la temperatura. Inizieremo come sempre con Mario, l'insostituibile Mario Seminerio, per riflettere insieme a voi sugli andamenti nuovi, gli ultimi rilasci di cifre sull'andamento della crisi italiana, e quindi cominceremo come ovvio dall'occupazione, e però andremo poi a un grande blocco in cui la domanda che vi facciamo subito, pregandoci di dire come la pensate, è relativa ai consumi, perché siamo in presenza per la prima volta di una ripresa stimata dei consumi che supera il punto percentuale su base annua. Questo riguarda il potere d'acquisto, mentre l'indicatore dei consumi su base annua, quello di Confcommercio, per la prima volta testimonierebbe addirittura un aumento superiore al 2%. Allora la domanda diventa: terzo indicatore, una diminuzione della propensione al risparmio, che è collegata infatti all'aumento della propensione ai consumi. Allora noi vi chiediamo: è vero nel vostro bilancio familiare o individuale che state davvero decidendo di consumare un pochino di più e di risparmiare un pochino di meno perché vi fidate della grande ripresa? Oppure perché, come dice, Renzi, stiamo stupendo il mondo, è vero che guadagnate di più, questo sarebbe l'auspicio migliore, però insomma, comunque, allora, per dirci come vi state orientando sui consumi, chiamateci e ci serve a capire un pochino, perché l'alternativa è che comunque sono variazioni dell'1% o poco più superiore, insomma è difficile immaginare che proprio siano una svolta nella vita di qualcuno, però comunque la propensione nei dati c'è, e allora fateci sapere ovviamente. Poi abbiamo un secondo altro blocco importante in cui ci poniamo un problema che è relativo al dibattito pubblico italiano nei rapporti tra regioni e governo, e su un tema preciso, l'energia. Nel mentre il titolo quinto della Costituzione, tra insulti e atti di sesso orale mimati al Senato, va avanti però con numeri su cui il governo è sicuro, e è successo ieri, Renato Cifarelli, lo sai, un verdiniano che con un microfono a una senatrice dei 5 Stelle ha chiaramente indicato che cosa avrebbe fatto al Senato. La classe al Senato. Un craxiano? Un ex craxiano. No, è ancora per certi aspetti, perché è sempre in giro con il sindaco di Aulla. Con il garofano nella pochette, per cui è uno che ci crede, diciamo. Esattamente. Del resto, se c'era un bisogno di una ulteriore conferma, è perché farlo chiudere il vecchio Senato, forse questa è stata la migliore conferma. Ma mentre va avanti questo tema, sull'energia cosa succede? L'energia è un tema su cui nel nuovo testo della Costituzione si riaccentrano le decisioni delle opere e delle scelte di energia strategiche nazionali, si riaccentrano al governo nazionale. Il governo nazionale in realtà l'ha già fatto con l'ultimo decreto sviluppo e con il decreto sblocca Italia della scorsa estate, e mentre Pippo Civati non ha raccolto le firme che doveva depositare questa settimana in Cassazione perché due dei suoi sei referendum erano i cosiddetti referendum antitrivelle sull'energia, nel frattempo 10 regioni italiane invece l'hanno depositato. Sapete che secondo la Costituzione bastano 5 consigli regionali per promuovere referendum abrogativi, sono 10 queste regioni. Il fatto è che di queste 10 regioni ben 8 sono a guida PD. poi c'è la Liguria di Forza Italia, guida Forza Italia Toti, ma l'avevano magari impostato e prima. E c'è il Veneto, no, vedremo che non è così, non è così, sono proprio molto convinti i governatori PD dalla Basilicata alla Puglia alla Campania. No, parlavo della Liguria, sì. La Liguria intanto però sono andati avanti, non se lo sono rimangiati, e soprattutto c'è anche il Veneto di a guida leghista, quindi è trasversale il dire no alle trivelle, no alle prospezioni, siano per gas o siano per petrolio, siano per terra o siano per mare. E la questione però vedremo con uno dei nostri occhi, e soprattutto basta col governo che crede di riaccentrare, nel mentre, ripeto, la riforma costituzionale di cui tutti si sono occupati solo per il listino dei senatori, nelle competenze è esattamente quello che fa. Allora, anche qua, diteci come la pensate, intanto se vi sembra così secondario diventare un po' meno dipendenti dall'estero per l'energia, ricordo che il 77% del nostro fabbisogno energetico è fatto di dipendenza energetica, e se secondo, se state con le regioni contro il governo o viceversa, in particolare se siete in una di queste 10 regioni, ripeto, Campania, Puglia, Marche, Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Veneto, Liguria, l'Emilia Romagna, che fino a pochi mesi fa era anche lei per l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale del ritorno alle prospezioni petrolifere e aveva decretato un blocco, ha cambiato idea, insomma, e quindi l'Emilia Romagna a guida PD si è sottratta all'abbraccio delle altre regioni. Però la questione diventa anche in questo caso, non è che nel frattempo cambiamo la Costituzione, ma in realtà il conflitto è elevatissimo, e soprattutto sull'energia ragioniamo o siamo solo emotivi? Che cosa ci ha fatto arrabbiare in questa settimana? Oltre a questi argomenti, un giro con un argomento a testa, Renato. A me non ha fatto arrabbiare niente, perché ho lavorato tutta la settimana. Ah, niente nemmeno? Ma no, ma perché poi... Marino, no, il Papa, nulla di nulla. No, ma Serafico. Allora, a me quello che sta facendo arrabbiare in questo periodo è la questione degli scioperi, se devo essere sincero. Venerdì, però, non ieri, essendo, Roma paralizzata. Non essendo molto frequentatore di Roma ultimamente, mi colpisce un po' meno. Però il fatto che un'azienda che è in chiara situazione fallimentare, che ha non so quante migliaia di dipendenti in più di quelli che dovrebbe avere, eccetera, eccetera, continua a scioperare perché manca il contratto o cose di questo genere, mi fa un po'... Sì. Non mi fa arrabbiare, mi fa tristezza più che altro, perché il problema è che spesso, secondo me, queste persone si dimenticano che sono pagate con i soldi delle tasse e quindi con i soldi della collettività. Io devo dire, oggi faccio un messaggio zero, un fondo con tre domande, una al prefetto, una all'assessore Esposito e una al governo, perché la cosa particolare è che questo nuovo assessore dei trasporti di Roma Esposito, in realtà, che ha detto al sindacato di base USB che ieri ha di nuovo paralizzato la città, li ha presi a schiaffi, per così, gli ha detto siete un partitino dell'extraparlamentare. Nel merito poi in realtà ha dato ragione all'USB dicendo che le gare dell'ATAC devono tornare con la manutenzione interna, e questo ha distrutto il piano industriale di ritorno di consolidamento firmato dal resto dei sindacati, e quindi si è dimesso anche il direttore generale dell'ATA contro l'assessore che ha dato ragione al sindacato, e ha detto, gli è sfuggito di bocca, e poi non prendiamocela con i lavoratori dell'ATA, gli autisti che lavorano già tanto, ripeto, il contratto nuovo era fatto anche per alzare le ore di lavoro ordinario dell'ATA, che erano di un terzo inferiore a quelle di Milano, ed evitare che si pagassero straordinario. Quindi il capolavoro di un assessore che dice che l'USB è un partitino extraparlamentare, ma in realtà sostiene esattamente le stesse cose. Sai, magari lavorano tanto rispetto a lui. Ah, non lo so, però certo, Roma. E poi perché il prefetto precetta una volta sì e una volta no? E poi perché a Milano, tre mesi prima, febbraio, che cominciasse l'Expo, c'è stata una moratoria sugli scioperi contrattata, accettata dalla maggioranza dei sindacati, che è entrata subito in vigore. A Roma mancano poche settimane al giubileo, perché non si può fare la moratoria anche a Roma? Vabbè, tutte follie di questo paese. Carlo Alberto. Mi ha fatto arrabbiare l'argomento tre palle e un soldo, di gelato intendo dire, perché sì, esatto, perché ancora una volta arriva Nestlé, arriva Unilever in questo caso in Italia a fare shopping di imprenditorialità italiana sul settore del food, e tutti ci gridano lo scippo, gridano ecco arrivano i cattivi dei multinazionali, posto che Unilever fa gelati da un sacco di tempo e li fa anche bene. La verità è che il progetto Grom è un bel progetto, ma è un progetto che, come tutti i progetti italiani, gran parte di loro, ancora una volta carenze di capitale e carenze organizzative, c'è grande intuizione, grande come dire, contenuto, ma oggettivamente numeri non in grado di sostenersi da soli su un progetto che invece ha giustamente ambizioni importanti. Quindi per me ben vengano i capitali e l'organizzazione di una grande Unilever a rilanciare e a dare sostegno a un bel progetto che rimane alla fine italiano, perché nessuno ha interesse a toglierlo. Quindi di nuovo i protezionismi di rivalsa, che non tengono conto dei numeri, che non tengono conto di una decisione aziendale che secondo me era doverosa, ancora una volta non fanno capire a questo paese come deve presentarsi alla sfida della globalizzazione. Ecco, la prossima volta leccate il gelato con più cognizione di causa sull'EBITDA, devo dire. Sì, no, però fammi dire, l'informazione molto lecchina nei confronti di alcune aziende italiane ha per anni evitato di dire che perdevano denaro a rotta di collo e investivano in maniera non commisurata ai propri mezzi, i due giovani di Torino. Però dalla parte industriale, che è quella che vedo sempre io dico che Grompo diventerà Starbucks del gelato. Sì, grazie a Unilever. Magari si offendono, attenzione. Perché così, con perdite annuali che erano ogni anno metà dei mezzi propri, non andava da nessuna parte. Questo è un'azienda disegnata per essere comprata, evidentemente. Sono d'accordo, bravo. Chapeau ai due, perché hanno inventato un finto gelato artigianale per venderlo bene, ma venderlo bene in senso di un proprietario. Dei ragazzi hanno una cultura finanziaria, esatto, secondo me corretta. Io mi levo il cappello perché hanno fatto bene il gelato e il progetto di impresa. Difendo i loro diritti, ma ripeto, l'informazione le ha presentate come due agropastorali rilanciatori. Allora parliamo dei giornalisti e della loro capacità di leccare non solo il gelato. Sto parlando di questo, infatti è autocritico. Mario? A me non ha fatto arrabbiare nulla nello specifico, sono abbastanza tranquillo. Io mi seguirei quello che ha detto Renato, anche perché sono abbastanza impegnato a seguire i mercati e non è un bel vedere in questo periodo. Come vedremo subito. No, però mi colpisce negativamente che la famosa spending review continua a dimagrire prima di arrivare al 15 di ottobre. E Biafrana. Ma riusciremo a capire che questa legge di stabilità è un deficit fatto per coprire il deficit dell'anno scorso? Esatto. E cioè che stiamo facendo un gioco d'azzardo? E di qui ripartiamo subito. E riuscirà subito a capirlo una parte della nostra stampa? Non si era incazzato. Questa è la cosa più difficile. Beh, io mi sono adeguato alla spending review, dai, sono diventato. Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati, 10:21, primi 27 secondi, 4 compare dei conti della belva, tutto in studio qui della 24 di Milano, e cominciamo subito con la nostra rubrica abituale, quella della che punto è la crisi. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta qualcosa non va. Il seminario in crisi questa settimana cominciamo. Dunque, noi abbiamo alcune riflessioni da fare insieme a voi. Una riflessione che riguarda l'occupazione, perché insomma anche in questo caso bisogna riflettere sui dati. E poi abbiamo una riflessione da fare sui dati dell'inflazione, e questo ci porta a ragionare sui mercati, il punto su cui poi abbiamo chiuso con le indicazioni del seminario. Mercati significa legge di stabilità, quindi queste sono le quattro cose, poi ci occupiamo dei consumi dopo le 10:30. Cominciamo dall'occupazione, Mario. Ma l'occupazione sta migliorando. È ovvio che sta migliorando, cioè volevo rassicurare tutti gli spiritosi che dicono che io rosico quando i dati dell'occupazione migliorano. A questo proposito comunico che chi si esprime in questa maniera sul mio Twitter viene bloccato distante senza preavviso, ma questa vorrei fare uso privato del mezzo radiofonico. No, sicuramente c'è in atto una ripresa. E i dati che vediamo dal versante del mercato del lavoro sono coerenti con la lieve ripresa di PIL che noi stiamo vedendo. Ricordate settimane, mesi addietro, quando dicevamo il PIL cresce zero, l'occupazione non può crescere perché vorrebbe dire che c'è un problema di produttività. Ecco, ora il PIL ha mollato gli ormeggi, sia pure a bassa velocità, e conseguentemente l'occupazione si sta riavendo, dapprima con una riduzione dei cassi integrati, e questo ci sta perfettamente, ora anche con un aumento degli occupati. Ora io non voglio ribadire quello che ribadiamo praticamente ogni settimana, però nel mese di agosto i dati dell'occupazione che ha pubblicato in settimana Istat, tra le altre cose che li pubblica su base trimestrale, hanno evidenziato che nel trimestre giugno-agosto, che è praticamente il trimestre delle vacanze, I nuovi impieghi a tempo determinato sono l'88% del totale. Quindi il totale dei lavori dipendenti, dei lavori dipendenti creati aggiuntivamente nel trimestre. Ora, poiché l'ultima volta che ho controllato il Jobs Act, diciamo, non impattava sui contratti a tempo determinato, bisogna chiedersi che cosa sta realmente succedendo, perché visto che il Presidente del Consiglio ha twittato immediatamente, però riferendosi al dato annuale, che la ripresa dell'occupazione è merito del Jobs Act, e qui io veramente continuo a non capire sulla base di cosa dica questo, ma quello è un problema mio. Attenzione, cioè, noi abbiamo visto, si sta verificando un aumento del tempo determinato che non è coerente con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, perché il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è un contratto che sussidia riccamente le aziende. 8.000 euro. Esatto, sul triennio. Che diventeranno 4.000. Ci sarà, forse, meno, se riusciranno a trovare la copertura. Anche meno, e poi faranno il pasticcino selettivo sulla base della regione o del sesso del lavoratore o di altre condizioni, mentre diciamo che sarebbe meglio lavorare su base erga omnes. Per cui la domanda è, realmente cosa sta succedendo su questo mercato del lavoro? Io un'idea me la sono fatta. È una classica prima fase di ripresa. Ripeto, meno casse integrati, più occupati a termine. È solamente questo. I prossimi mesi diranno, ma io ho trovato molto interessante questa settimana un commento del presidente di AssoSom, no? L'associazione che riunisce le agenzie di somministrazione di manodopera, che dice: c'è stata una forte crescita della somministrazione di lavoro 2015 su 2014 nel settore della hotellerie, quindi diciamo del turismo. Qui ha impattato una eccellente stagione estiva, ha impattato con alta probabilità anche l'Expo. Abbiamo avuto anche un aumento dei contratti di somministrazione nel settore auto, cioè diciamo l'effetto Fiat partito all'inizio della primavera con la produzione industriale, eccetera, si sta diciamo estendendo all'indotto. Abbiamo detto la settimana scorsa che questo effetto Fiat è anche di produzione destinata all'export, ergo se la congiuntura globale peggiora i problemi si riverberano su di noi, e quindi la situazione è questa. Cioè, a me fa piacere che si debba iniettare ottimismo nel paese, anche il dato dei consumi, questo 2%, ci arriviamo dopo. Aspetta, io aggiungo un dato, perché ci siamo posti il problema di capire dall'inizio dell'anno questo andamento dei lavori di somministrazione. Sto parlando finestra Asso Lombarda, quindi la più grande territoriale di Confindustria. E in effetti i dati che stanno arrivando sono coerenti alle aspettative che ci dichiaravano gli imprenditori sin da inizio d'anno. Quello che conta è che al di là degli effetti stagionali negli hotel, più 23% si spiega con quello che hai detto, ma in tutta la manifattura in realtà il lavoro a somministrazione è un più 21%, sì, che è molto forte. Certo. Allora, l'interpretazione rischia di essere già questa, e dico già perché vedremo nei trimestri prossimi se è così. Esaurita la fiammata iniziale, portiamo a casa la decontribuzione sui contratti a tutele crescenti, e quindi effetto sostituzione di contratti in scadenza o non in scadenza ma a tempo, messi invece al posto, trasformati con tutele crescenti. Già nella manifattura italiana, alle prese con i primi evidenti segnali di frenata degli ordinativi esteri per il rallentamento del commercio mondiale, crisi BRICS e Cina, uno, due, e di fronte a un atteggiamento diciamo di scettica attesa rispetto a miglioramenti davvero sostanziali della domanda interna, la manifattura italiana inizia a dire: sapete che c'è, andiamo con la somministrazione e il tempo determinato, cioè come dire che l'effetto vero integrale di sostituzione a favore delle tutele crescenti già è quasi finito, sì. E con l'aggiunta, soprattutto nel mese di agosto, di aver capito oramai che la decontribuzione l'anno prossimo non c'è più di 8.000 euro, e quindi direi a maggior ragione fermi piano. Ecco, vedremo nel prossimo trimestre se questo elemento si accentua, però certo il più 21% di somministrazione alla manifattura italiana non se l'aspettava nessuno. Beh, ma visto dal campo, poi ormai il processo che si fa in azienda è sempre quello, cioè tu parti con la somministrazione, quindi hai delle necessità, esatto, istantanee, parti con la somministrazione, trovi qualcuno decente che ha voglia di lavorare, gli proponi un contratto a termine se il business nel frattempo mantiene abbastanza la cosa, e poi e in terza istanza se il business mantiene, se il business mantiene, tutto funziona, eccetera eccetera, lo assumi definitivamente. Il problema qual è? È che questo processo va a finire che dura almeno un anno e mezzo. Almeno un anno e mezzo. Questa è una reazione dal libro di testo del mercato del lavoro, credo si possa dire. Cioè, allora, io lo so che poi, cioè io faccio l'imprenditore di mestiere e so benissimo, mi piacerebbe dare lavoro a molta più gente, però io devo far quadrare i conti. No, cioè, figuriamoci. Il problema delle aziende è che con una struttura del mercato di lavoro qual è quella d'Italia, con i contratti così rigidi, non fanno altro che tutelare quello che è il business, per cui cercano di mantenere i costi variabili. Questo è alla fine il mestiere nostro. Allora, dato su cui riflettere anche, che è un dato che riguarda l'Italia ma l'euroarea ed è un dato mondiale, è quello del dato di inflazione di settembre, che è un meno 0,3%. Padoan ha subito detto va esattamente nella linea del dato che ci aspettiamo, perché vedo uno che si, perché si l'incamerato sta annuale le mani è più 0,3%, però la realtà è che l'intera euroarea è caduta di nuovo sotto zero nel mese di settembre, noi meno 0,3%. Ricordiamo a tutti, ve lo abbiamo già spiegato, che la nota di aggiornamento del DEF, cioè la prossima legge di stabilità, è tutta appesa sulla promessa di aumentiamo il deficit ma diminuisce il debito su una stima del deflatore, cioè della componente nominale, cioè dell'inflazione dell'anno prossimo, molto elevata. Dell'uno. Nel frattempo in Europa e l'Italia l'inflazione va in direzione opposta, va giù, non va su, perché noi importiamo deflazione da tutto il mondo e mentre i mercati sono instabilissimi, la Fed, stiamo arrivando il terzo sabato in cui la Fed ha lanciato un segnale contrapposto, perché tre settimane fa aveva detto no ragazzi, i tassi non si toccano. Quando abbiamo finito la trasmissione il sabato scorso, eravamo invece la Yellen che diceva no, li ritocchiamo di nuovo. Ieri dati dell'occupazione non troppo ottimisti negli Stati Uniti, di nuovo dicendo no, raddoppiamo il QI in Europa, facciamo il quarto QI negli Stati Uniti. Ma insomma, Mario, qua siamo messi un po' Il problema è che non stiamo finendo le munizioni. Cioè, se effettivamente abbiamo un commercio internazionale che sta piantando una frenata storica, perché questo si vede, la condizione dei paesi emergenti è sempre più grave ed è una condizione oramai manifestamente recessiva. Naturalmente paesi emergenti c'è dentro tutto il contrario di tutto, certo, però è abbastanza omogenea la condizione di crisi. La Cina a colpi di stimoli sta rapidamente finendo le munizioni, e quindi che cosa può succedere? Io ieri ho fatto un post sul mio sito dove facevo anche la battuta del tipo: ma arriveremo a fare un easing quantitativo alla cinese, cioè compreremo azioni. Perché stiamo finendo veramente le munizioni. Beh, le grandi banche d'affari internazionali con le loro note premono esattamente sì, in questa direzione. Vabbè, ma io non sono parte, diciamo, esatto, del giro, però mi viene da pensare che, visto che quello che viene dopo è questo. Però anche parlando così de minimis, anche la Francia ha presentato un progetto di legge finanziaria, no? Sì, la loro legge di stabilità, che prevede per il 2016 un deflattore del PIL all'1%, esattamente come l'Italia. E che il dato invece dell'inflazione di settembre della Francia è più devastante di tutta Europa, in senso opposto. Ma anche quello spagnolo. Sì. E i dati di manifattura di settembre con l'indice dei direttori acquisti di Market mostrano che abbiamo una frenata in corso, sia la Spagna che l'Italia. Ragazzi, adesso... Però posso dire una cosa? Sì. Che per me la deflazione è bellissima. Sì, ma perché tu hai fatto i budget ai tuoi clienti con la deflazione dentro. No, per un fatto microeconomico. Perché ancora qua stiamo ragionando a modelli super fissi dal punto di vista microeconomico, quando non è così. Oltre al fatto che il lavoro e beni ormai sono diventati un mercato globale, quindi la pressione sui prezzi è spaventosa, sia per sostituzione sia per un internet che ti compara i prezzi e quindi riduce le asimmetrie informative. Però voglio dire una cosa importante: la deflazione è bella perché è redistributiva e meritocratica, perché è l'unica cosa che serve per difendere invece dei salari nominali che ovviamente sono inchiodati. Quindi il potere d'acquisto che sta aumentando in realtà grazie alla deflazione, e la verità è che i monetaristi non se la caveranno così tanto facilmente truccando la base monetaria. E perché dico che è interessante la deflazione? Keynesiani, più che altro i keynesiani. No, anche i monetaristi, fammi dire, che hanno l'idea di comunque che la moneta sia neutra. Guarda che, fammi dire, la moneta non solo non è neutra, ma è un monopolio, secondo me è tutto da discutere. Volevo solo dire una cosa importante. Uno degli argomenti classici contro la deflazione è: ma la gente smette di comprare le automobili e le case perché si aspetta che diminuiscano dello 0,2%, puoi immaginare. La verità è che sono cambiate cambiate le modalità contrattuali e passiamo da investimenti in capitale fisso, quindi capex, a modelli pay per use, a modelli di consumo, a quella che si chiama servitization nel settore industriale. Non quindi, diventare incomprensibile, no, esatto, per gli ascoltatori, ti stiamo perdendo, attenzione. La faccio semplice: non spendi più i soldi in conto capitale, ma fai i contratti di uso. È quello che succede nella, caro nella Alberto, sharing economy. Io ho il dovere di ricordarti che le grandi, grandissime, medie e anche le piccole aziende italiane hanno dei sistemi attraverso cui nel tempo aggiornare il valore di libro dei loro asset gonfiato. Questo riguarda gli asset, quindi riguarda anche i debiti, cioè quindi la loro solidità patrimoniale è calcolata inerzialmente da decenni con modelli che non solo incorporano solo inflazione e non deflazione, ma sperano ovviamente che ci sia inflazione, e lo sai meglio di me. Quindi la rivoluzione di cui parli tu, che sicuramente quando arriva, è chiaro, le commodities più basse dovrebbero essere un vantaggio, no? per un paese come il nostro, però implicano una rivoluzione del modo di fare i bilanci patrimoniali, prima che di conto economico, di banche, certo, aziende, prestatori, cambiare la testa ai modelli finanziari. Allora è una rivoluzione che però, come tutte le rivoluzioni, ha una transizione pretende sanguinosa. Dei morti. Esatto, ha una transizione sanguinosa. Ecco, pretende dei però morti. Però insisto, è redistributiva e meritocratica, sono proprio d'accordo. Perché va a ritoccare sono rendite d'accordo. Basate su finzioni contabili, caro Oscar. Però non bisogna dirlo ai debitori, morti, che sui morti andiamo. Bravo, bisogna dirlo, bravo, ai debitori, che è redistributiva, nel senso che è redistributiva verso i creditori e meritocratica nel senso che il debitore è la vittima. Fermateli. Come si capisce, a noi questo mondo così incasinato piace perché ci pone delle sfide intellettuali. Non date retta a chi vi dice deflazione cattiva, inflazione buona. C'è del buono e del cattivo in entrambe. Il problema è a chi va, e quando voi non capite di che si tratta vuol dire che colui a cui va se lo sta già prendendo, ve la sta mettendo nel fondo schiena. Questa è la mia riflessione, ma torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qua, tornati in diretta con Fare dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Renato, Mario. Scusa, ho fatto l'incrocio magico. Ragazzi, abbiamo un po' ucciso gli ascoltatori con termini troppo tecnici. Noi ci appassioniamo, ci dovete scusare, però insomma è perché non la pensiamo molto come il però non sono comune. Ancora arrivati insulti, che è buon segno, o forse un brutto segno. Magari no, se volete è un brutto segno. Io che ho la mente segno. Semplice, se volete la spiego con le parole semplici. No, andiamo alla questione adesso. Abbiamo visto la produzione, l'inflazione, deflazione. Rischio su DEF, rischio nel dire, come pensiamo noi, che la deflazione ha gli aspetti positivi, bisogna cambiare il modello su cui c'è il debito di tutte le banche e le imprese italiane, insomma problemi fondamentali. Ma andiamo ai consumi, perché la notizia di questa settimana, oltre al rilascio delle stime di occupazione e inflazione, ha riguardato potere d'acquisto delle famiglie, che su base annuale sale in maniera superiore all'1%. L'indicatore dei consumi di Confcommercio a fine luglio aveva un più 2%, e allora la domanda è diventata subito ma insomma siamo finalmente in ripresa di una verificabilmente stabile, con qualche solidità anche almeno nelle promesse, ripresa della domanda interna dei consumi? Ecco, su questo vi abbiamo chiesto di telefonarci. Su questo, prima di presentarvi gli ospiti, intanto vi ricordo che cosa il Presidente del Consiglio in settimana ha detto. Voi dite che l'Italia può diventare più forte della Germania, più forte di tutti gli altri paesi europei, è la tesi che Soros ha spiegato ieri in un'intervista a un vostro giornale, a un quotidiano italiano. Per me ha un senso tentare di darsi degli obiettivi alti. L'Italia è nelle condizioni di raggiungere questo obiettivo, bisogna però smettere di fare polemiche, ritirarsi sulle maniche ed avere la fiducia e la serenità che contano. Allora, avete sentito, il Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia sta già stupendo il mondo, può fare meglio della Germania. Allora, per interrogarci su questa ripresa dei consumi, c'è davvero, voi la sperimentate? Vi presento gli ospiti, abbiamo con noi, per capire meglio che cosa Confcommercio stima che stia avvenendo nel portafoglio, nella testa degli italiani, perché significa anche risparmiare di meno, consumare di più, abbiamo con noi Mariano Bella. Grazie di essere con noi, Mariano. Buongiorno, grazie a voi. Che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. E poi, per l'Unione Nazionale Consumatori, Mauro Antonelli. Buongiorno e grazie Antonelli. Buongiorno a voi. Allora, sentiamo intanto un ascoltatore che ci dice se è più pronto a consumare e avverte quindi questa maggior sicurezza. Matteo, che ci chiama da Cremona. Matteo, prego. Pronto? Eccoci Matteo, vai. No, io volevo solo segnalare che c'è sicuramente una ripresa di consumo. Io ho un'attività commerciale con diversi dipendenti già da diversi mesi, diciamo da aprile-maggio. È proprio percepibile, sia nell'aumento del flusso di persone, l'aumento di spesa, anche spesa diciamo veloce e spesa anche più programmata. È nettamente percepibile la cosa. Va bene, grazie della testimonianza. Allora, il dato della settimana, quello rilasciato dall'Istat, è relativo al fatto che la crescita del reddito, insomma, degli italiani in valori correnti è dello 0,5 a livello congiunturale, che diventa un più 1,3% nel confronto annuo. Allora, Mariano, che dite voi? Perché voi siete stati i testimoni più implacabili di anni di caduta dei consumi. È solida questa ripresa? Ma insomma, se guardiamo gli indicatori congiunturali, produzione industriale, fiducia delle famiglie, occupazione e il nostro indicatore sui consumi, che poi è una sintesi di vari indicatori, compreso l'indice delle vendite al dettaglio, i grafici tendono tutti al rialzo. Quindi parlare di ripresa, secondo me, si può fare al di là di ogni ragionevole dubbio. Che poi sia una ripresa stupefacente, che stiamo stupendo il mondo, oppure che vogliamo fare polemica se diciamo che non lo stiamo stupendo, ecco, questo io non lo so. Il Presidente del Consiglio merita tutta la nostra fiducia, la nostra stima, però vorrei dire, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Confcommercio, che noi continuiamo ad avere il diritto, penso anche come te, di fare analisi. Sì, se mettiamo in evidenza qualche elemento diciamo di dubbio, non siamo per forza gufi, sciacalli o detrattori del nostro paese, stiamo facendo un po' di analisi. Allora, per quanto riguarda il reddito disponibile, è vero che c'è un po' di crescita dovuta sia un po' a trasferimenti pubblici, cioè il bonus di 80 euro, sia al rinnovo di alcuni contratti come per esempio quello del commercio e del terziario, e anche è dovuto poi alla bassa inflazione, cioè un aumento nominale dei contratti rispetto a un'inflazione negativa o molto bassa, comunque genera un po' di potere d'acquisto. D'altra parte mi pare che ci sia un po' di effetto ricchezza sia sui titoli a reddito fisso che con qualche incertezza sulle azioni, e quindi questo aiuta il reddito disponibile e soprattutto i consumi. Però mi fa piacere quello che ha detto il vostro ascoltatore, cioè il commerciante, che vede effettivamente una crescita della spesa. Però bisogna ricordare sempre, e qui appunto non voglio essere preso per gufo, che rispetto ai massimi del 2007 in termini di consumi o rispetto ai massimi del 2005 in termini di reddito disponibile, se guardiamo i dati al netto dell'inflazione e divisi per il numero di persone che consumano e percepiscono redditi in Italia, abbiamo perdite che vanno dall'11% al 16% in termini reali. Quindi, in poche parole, se in termini aspetta, di consumi, precisami, il meno 11% è rispetto al reddito riguarda al picco, diciamo, al massimo del terzo trimestre 2007. E in buona sostanza come consumi rispetto a quando in termini pro capite, in termini reali di oggi, avevamo il massimo, abbiamo perso più di 2.000 euro e ne abbiamo persi più di 3.400 in termini di reddito disponibile rispetto al quarto trimestre del 2005. Oggi rispetto ai minimi, di quei 3.400 euro di redditi abbiamo recuperato soltanto 134 euro l'anno. Ecco, fai bene a fare questa scala, quindi, che dà l'idea. E quindi, come dire, ci confrontiamo per forza con una situazione di disagio. Tra l'altro bisogna anche ricordare che la crescita dei consumi che stiamo avvertendo negli ultimi mesi è soprattutto crescita dei beni durevoli, e all'interno dei beni durevoli per il 95% è crescita dell'auto. Esatto. Il che pone qualche ragionevole preoccupazione, non per il mese di ottobre o di novembre, ma diciamo per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, quando l'effetto Volkswagen potrebbe vedersi, perché mi è stato detto, quando ho messo in evidenza questa cosa, sì, non ti compri non ti compri l'Audi, ti compri la BMW, questo è vero solo in parte, perché se ci fosse una sostituzione totale, allora magari avrei deciso, senza l'effetto Volkswagen, di comprare un'altra macchina. Non è che se ora annullo l'ordine su una Volkswagen compro necessariamente un'altra macchina, quindi questo potrebbe vedersi, al di là di effetti di lungo periodo che hanno a che fare, diciamo, con la visione del capitalismo sostenibile, cui la storia della Volkswagen dà, secondo me, un colpo abbastanza importante. È vero che ci sono crescite dei consumi che ora finalmente si stanno, diciamo, diffondendo a altri settori, però abbiamo degli elementi di debolezza molto forti. Gli alimentari non sono ancora ripartiti, e soprattutto non sono ripartiti sui negozi piccoli, in cui il saldo di nati mortalità è ancora negativo nei primi sei mesi dell'anno. Non sono ripartiti in maniera seria sull'abbigliamento, anche su altri beni durevoli come i mobili abbiamo qualche difficoltà, meglio gli elettrodomestici bruni e bianchi. Sulle spese quotidiane tipo la profumeria, il chimico casa, che sono una parte fondamentale della nostra vita quotidiana, ancora non ci sono dei segni più rilevanti, ci sono dei timidi segnali, quindi ci vuole cautela, però non si può negare che la ripresa ci sia. Allora, una ripresa di 130 euro su 3.500 che ne abbiamo persi. Questo per darvi un'idea, ecco, questo mi sembra una maniera corretta e precisa. Torniamo tra un minuto. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, abbiamo visto con Mariano Bella, il dottore dell'ufficio studi di Confcommercio, sì, certo, c'è una piccola ripresa apprezzabile, perché cambia il segno del reddito disponibile italiano dei consumi. Ricordiamoci quanto ne abbiamo perso, vediamo per settori, molto auto, molti beni durevoli, non c'è ancora ripresa in tanti altri settori, e la discesa della propensione al risparmio rispetto ai consumi, stiamo ancora parlando proprio di piccole frazioni. Vediamo Pietro da Bergamo invece se percepisce anche lui un cambio, una svolta sui consumi e sul reddito disponibile. Pietro, prego. Pronto? Dico. Salve, buongiorno. Ascolti, secondo me, allora, io per quanto mi riguarda ho una certa propensione maggiore al consumo ultimamente, negli ultimi, diciamo, sei mesi forse. Che le costi vanno meglio. No, non è realmente un discorso legato al guadagno o a quanto guadagno. È un io lo vedo come un fattore psicologico del fatto che mi sono stancato della crisi. Mi sono stancato del fatto di stiamo attenti, non spendiamo, risparmiamo il minimo, poi tutto quello che possiamo risparmiare. La componente della fiducia che ha i massimi da anni delle imprese è fatta esattamente di questa cosa che ci stai raccontando. Quindi da questo punto di vista anche Pietro ci ha aggiunto un elemento importante. Sentiamo invece Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Voi come la vedete? Stiamo stupendo il mondo? No, allora è chiaro che le recessioni non durano in eterno, neanche quella del 29, quindi tutti i parametri economici che hanno segnato meno dal 2007 ad oggi adesso sono tornati, diciamo così, in terreno positivo. Il punto è quanti anni ci mettiamo per tornare a livelli pre-crisi, questo è il punto. Allora, lei sa che il punto messa così fa incazzare come una iena il Presidente del Consiglio dicendo no, il punto è che mi dovete dire che io vi ho fatto svoltare e piantarla lì. Diciamo che la svolta la dobbiamo a Draghi, la dobbiamo al petrolio. Ma lei vuol fare, lei vuol fare l'oggettivo, allora. Ma lei è fastidioso. Lei è fastidioso. Col pH. Ci provo. No, allora il problema è questo. Dopo arriviamo al governo, che è interessante. Allora, prendiamo per buono l'ultimo dato tendenziale sul PIL, 0,7. Allora, il più 0,7, per recuperare il PIL perso nel 2009 vuol dire 7 anni, solo quello perso nel 2009. Se prendiamo per buona la variazione del DEF, più 0,9, sono 5 anni e mezzo per recuperare il PIL perso in un solo anno. Altro esempio, produzione industriale, l'ultimo dato ci dice che abbiamo guadagnato un più 2,7, dato sicuramente positivo, peccato che dal 2008 al 2015 abbiamo perso il 18,4%. potere d'acquisto, anche lì, a parte che diciamo si deve all'inflazione bassissima, visto che era relativa al secondo trimestre dove c'era ancora la deflazione. Però il punto è che abbiamo guadagnato l'1,1, ma abbiamo perso il 10,6 di reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici dal 2014 al 2007. Veniamo ai dati di Confcommercio, che sono interessanti. Allora, vendita al dettaglio. Allora, intanto c'è il dato Istat positivo, anche questo, più 1,7 su luglio 2014. Peccato che i piccoli negozi abbiano perso l'11,9 dal 2008 al 2014 sul totale delle vendite. Per quanto riguarda la voce alimentari, siamo a meno 13,2%. Il dato di Confcommercio è che 35.000 negozi hanno al dettaglio hanno chiuso dall'inizio dell'anno. Ma Renzi direbbe che quindi è uno strepitoso cambio di modello distributivo che alzerà l'efficienza del paese, e abbiamo insegnato anche nella crisi gli italiani a mangiare meglio e a mangiare meno. Questo è quello sì, che direbbe allora, Renzi. Ok, allora diamo i dati della Confcommercio che sono interessanti, così faccio un omaggio all'altro ospite. Indicatore dei consumi della Confcommercio in quantità. Allora, il dato dell'alimentari, l'ultimo, è ancora meno 0,2, che è indicativo. A noi piace molto la questione degli alimentari, no? Perché sono beni necessari, diciamo così, dei quali non siamo abituati, ovviamente, non facciamo a meno. Allora, se andiamo a vedere il dato dell'ICC della Confcommercio dal 2007 ad oggi, noi ci troviamo meno 1,1 nel 2014, meno 3,8 nel 2013, meno 3 nel 2012, meno 1,8 nel 2011, meno 0,7 nel 2010, meno 3,1 nel 2009, meno 3,3 nel 2008, meno 1,4 nel 2007. Cioè, si può dire che gli italiani non è che hanno ridotto gli sprechi, stanno letteralmente mangiando meno. Quanto al modello distributivo, gli ipermercati dal 2008 al 2014, nonostante le mega offerte promozionali, hanno perso il 7,2. Gli unici che guadagnano veramente sono i discount, più 9,1. Mm-hmm. Ma questo vuol dire che praticamente gli italiani hanno smesso di acquistare i marchi famosi che hanno reso famosi i Made in Italy nel mondo, e sono, tra virgolette, costretti, poi magari sono buoni ugualmente, per carità, ma sono teoricamente costretti ad acquistare prodotti di marche non molto note. Aspetti, la fermo qua, perché qui alcuni di noi lavorano professionalmente per clienti di questo settore, quindi questo è un discorso molto delicato da fare, perché ripeto, i marchi di alcuni grandi gruppi, immagino il gruppo Selex per esempio, che è una somma di franchising di grandi piccoli distributori locali con etichette regionali, nella mia opinione c'è una selezione di qualità dell'etichetta alimentare che non consente facili giudizi sul tipo, ma stiamo disabituando gli italiani a comprare bene. Al contrario, si sta divaricando il mercato, stando verso il basso sulle commodity e verso l'alto sulla qualità, sulla sostenibilità. È un mercato che crolla il mediocre, questo sicuramente. Qualsiasi mercato è così. Comunque, però crolla contemporaneamente, perché non si ritorna ai livelli pre-crisi, questo bisogna tragicamente dirlo, né nella piccolissima e piccola distribuzione, ed è in crisi il modello di sostenibilità finanziaria anche della grandissima distribuzione. I centri commerciali, questo è il punto, cioè hanno problemi, sono i due poli estremi della catena. Mariano Bello, come si esce da questa doppia crisi della catena distributiva, per motivi diversi, ma secondo me non torna ai livelli pre-crisi? No, beh, insomma, se dovesse esserci una ripresa, tu speri che se ci fosse una ripresa duratura, qualcosa si aggiusterebbe. È chiaro che il modello dei grandissimi ipermercati o di alcuni centri commerciali è un po' come dire, si è ceduto negli anni 90, esatto. e si sta un po' e si riallinea la bolla, certo, è così. E si sta un po' tornando indietro. Io tornerei per un istante sul discorso della fiducia, perché è molto importante. Se guardiamo il grafico, effettivamente l'effetto Renzi, al di là della BCE, c'è stato tra marzo e luglio 2014. La fiducia è cresciuta a prescindere da fattori internazionali. E su questo riconoscimento oggettivo a Renzi ti devo fermare, perché noi naturalmente abbiamo il tempo fisso a 56, quindi grazie a Marino Bella, grazie a Mauro Antonelli. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Della belva. Eccoci tornati dopo Giornale Radio, sono le 11.07 primi e 28 secondi in questo sabato 3 ottobre, i quattro compari dei Conti da Belva, Oscar, Renato, Carlo Alberto e Mario. E ci siamo interrogati sull'Italia che sta stupendo il mondo e farà meglio della Germania. Abbiamo visto occupati, abbiamo visto il dato dell'inflazione di settembre, con i mercati che chiedono sempre più QI, chissà per quanti decenni a venire. Abbiamo visto i dati sulla ripresa del reddito disponibile, dei consumi, abbiamo capito un po' meglio per settori come vanno le cose. Abbiamo scoperto che dopo tanti anni a parlare di crisi in realtà dipendiamo dal Marchione e dalla Fiat per la ripresa italiana molto più di quanto immaginassimo. E sentiamo un po' di voi prima di arrivare poi al grande blocco sui referendum delle 10 regioni contro il governo sull'energia. Sentiamo un po' voi come vivete questa Italia che stupisce la Germania, fa meglio la Germania e stupisce il mondo. Luigino da Verona, tu sei uno che sta riprendendo i consumi e vedi intorno a te questo oppure no, Luigino? Allora, intanto io sono un piccolo artigiano, con mio figlio ci siamo reinventati, non è merito del governo, siamo noi che ci siamo reinventati, noi che abbiamo messo in moto la faccenda. Perché? Perché andiamo dappertutto, troviamo nuovi sistemi, ma non sono loro, è un socio, il governo è un socio che deve star fermo. Perché io non farei mai società con uno che mi fa del danno. Ma sei obbligato però, visto quello che ti piglia. Questo è il punto. Allora, perlomeno che stia fermo, stai fermo, non muoverti. No, visto che io Luigino, non tu non puoi pretendere che Renzi stia fermo, non sta mai fermo. Ho capito, ma allora però lui ci deve prendere i meriti che ha, non che è lui. Non è vero. Ha qualche merito, se ce l'avamo, ma però le garantisco, Giannino, che siamo noi imprenditori, io sono un piccolo imprenditore, io mi sono reinventato, stavamo andando a far falle, ci siamo reinventati, abbiamo alzato il tiro, lavoriamo, siamo andati sul lusso, ci vogliono noi dappertutto, le garantisco, io sono stato in Russia, io lavoro sui mobili, su delle cose straordinarie, ma ci siamo reinventati, se no morivamo. Allora, Luigino giustamente aggiunge un grano di saggezza. In tutto questo c'è l'Italia che non si arrende e che si reinventa. Prima ci spiegava nell'interruzione Renato che cosa capita quando, dopo lunghi periodi di crisi in cui chi stava solo sul mercato interno non esportava, ovviamente investe meno, vende meno, eccetera, eccetera, quando arriva la ripresa cosa rischia? Rischiamo che chi non ha fatto prodotti nuovi si vede mangiare il mercato. Infatti stavo appunto dicendo che... Perché alla ripresa a quel punto la gente compra i prodotti di importazione, certo, e non chi è rimasto fermo. Ma compra i prodotti più nuovi, cioè se noi facciamo il conto di com'è cambiato il mercato da quando è partita la crisi, quindi 2009, i prodotti che c'erano nel 2009, i prodotti che ci aspettiamo oggi nel 2015, ci sono sostanziali differenze. E il problema è stato che molte aziende, purtroppo per una effettiva mancanza di soldi per disponibili, hanno fatto pochi investimenti. E però Luigino ci ricorda che nel lavoro autonomo, chi si è reinventato adesso, ecco, non solo è sopravvissuto e ha trovato nuovi margini quando le cose andavano male sull'estero, infatti, cioè, però poi anche sulla ripresa sarà messo meglio. Viva gli italiani, quindi, caro Presidente del Consiglio. Anna da Firenze, che dice Anna? Sì, mi scusi, sono una cittadina normale, non sono un'imprenditrice. Ho sentito al vostro giornale radio che aumenterà la corrente e il gas di circa 80 euro al mese, cioè 1000 euro a una famiglia. Allora, gli 80 euro a chi l'ha avuti spariscano, se poi forse spariscano stesso diventano 40, e quelli che non l'hanno avuto hanno una diminuzione di reddito. Io sarei propensa a spendere, ma in questa situazione che viene sempre nuova non lo diano questi discorsi in televisione, però 80 euro al mese della luce e il gas una famiglia comportano. Altro che. Allora, Anna pone un altro problema. All'anno, non al mese. Sì. All'anno. E all'anno. Ecco. Speriamo. No, la variazione è all'anno, almeno questo diciamolo. No, per carità. Però Anna pone un problema aggiuntivo e diverso. Quando analizziamo il reddito disponibile, ovviamente media nazionale e propensione al consumo, ovviamente ci dobbiamo porre il problema di come stanno le fasce più basse di reddito, gli incapienti, quelli che non hanno avuto l'80 euro. Su questo io ho un punto interrogativo, perché in legge di stabilità, tra le tantissime promesse del governo, che non so come farà a mantenere, sia pur con un 17 miliardi in deficit aggiuntivi, ma detto questo, ce n'è anche uno sulla povertà. Vedremo congegnato come, perché non l'ho capito, i giornali hanno scritto di tutto e di più, però certo dal punto di vista degli interventi del governo fino a questo momento su questo aspetto siamo deficitari. C'è Carlo Alberto? Sì, un commento soltanto sulle dinamiche di medio termine. Sì. Noi abbiamo un tasso di risparmio, la propensione di risparmio dell'8,7%, sì, e un tasso di investimento che è diminuito, adesso è allo 6,0%, cioè il rapporto fra risparmio e investimento è 1,45, che è un rapporto molto importante, che sta dicendo che stiamo risparmiando una volta e mezzo quello che vogliamo investire. Questo è segno di un paese che è ancora impaurito rispetto al domani, che giustamente sta corto, sta stretto, sta elastico, ma non prende decisioni di medio lungo termine. È anche un segnale di un paese che ha paura del futuro, è un po' vecchiotto, perché alla fine i consumi che vedo sono consumi, fammi dire, non dei giovani, fammi dire, ma dei, i consumi di chi ha reddito e patrimonio. I giovani hanno perso punti, sono totalmente occupati. Vedi il problema. Che gli altri esattamente quello che cioè, dici se tu. Facciamo una spaccatura demografica, io sono preoccupato, perché alla fine la ripresa va a, di nuovo a tutelare chi è un paese, chi è non patrimonio, per giovani, chi è garantito e chi ha patrimonio. Basta vedere i dati dell'occupazione, no? Per corti anagrafiche, chi è avanti? Le corti anagrafiche sono i 55 anni e oltre. Esatto. A questo proposito, cosa avete contro i 55 altra anni? altra componente, questa settimana in pochissimi hanno rilevato un'altra distonia dei dati pubblici del nostro paese. Dice l'ABI, entro fine luglio, dall'inizio dell'anno a fine luglio, più 86% dell'erogazione dei mutui rispetto all'anno precedente. Tutti partiamo in quarta dicendo è ripartito il mercato della casa, eccetera eccetera. L'ABI dice in quel più 86% un terzo sono le surroghe, però i due terzi sarebbero erogazioni per mutui nuovi. A quel punto, giorno dopo, poche ore dopo, ma era a fine giornata, quindi i giornali non hanno incrociato i due dati, l'amministrazione tributaria dice sarà, ma a noi quello che risulta è che a fine luglio sull'anno precedente l'aumento delle compravendite, cioè dei contratti registrati a fine fiscale, sono del più 3%. Capite che tra un più 86, levatene un terzo per le surroghe, ma rimasta e rimane un più 50% abbondante, e un più 3%, uno si interroga e dice bah, ma che cavolo di paese viviamo? Ma vale, sui 3%, dati, che, 3% in percentuale di case acquistate, no, in percentuale, 50, di, contra- no, di, atti, in percentuale di atti, di atti. Ma comunque l'Agenzia delle Entrate è dentro privati e imprese, mentre i dati ABI sono privati, sono privati. Il privati. Discorso è che magari, cioè, sono proprio due universi diversi, hanno comperato tante case da ricchi in pochi. Non lo so, però insomma, per dire, siamo anche lì lontani dal poter dire abbiamo una rappresentazione statistica. Però il giorno dopo avanzato. I giornali sono stati tempestati da lettere e letterine di personaggi pubblici addetti ai lavori che hanno detto che i dati dell'ABI sono massimamente affidabili. No, mi ha colpito quello, perché ogni giornale era pieno di questa letterina. Ed è fantastico, perché quindi a essere sfiduciati erano i dati ufficiali dello Stato, dell'amministrazione. Esatto. Vedi un po' cosa succede nel nostro oppure paese. Oppure non hanno registrato il contratto. Dai. No, vabbè. No. Che l'effetto di trascinamento nella registrazione tributaria viene dopo rispetto all'erogazione, che viene prima dell'intenzione e del perfezionamento, come è evidente. Però voglio dire, non può esserci una discrasia nell'ordine da più 55 al netto delle surroghe e più 3%, perché è evidente che c'è qualcosa che non torna. Allora cambiamo pagina e andiamo a un grande fronte che vedrete nei prossimi mesi si arroventerà. Adesso è solo notizia per addetti ai lavori. Questa settimana non ce l'ha fatta Pippo Civati a raccogliere le 500.000 firme per i suoi 6 referendum, 2 dei quali erano sul fronte energetico contro le ricerche e prospezioni petrolifere di gas, quindi no trivella, come si dice. Però lo stesso giorno la Corte di Cassazione invece sono stati depositati dei quesiti da parte di 10 regioni italiane. La Costituzione consente il referendum abrogativo quando sono almeno 5 consigli regionali a votare, sono 10 le regioni. Di queste 10 regioni, 8 sono a guida PD, poi c'è la Liguria con Toti, Forza Italia, presidente, e il Veneto con Zaia, Lega, presidente. Sono 10 referendum che in buona sostanza dicono: caro Stato, con le tue misure, con i tuoi provvedimenti e anche con la riforma costituzionale che è in corso, riaccentri le decisioni sulle opere energetiche di rilevanza strategica nazionale. Noi non siamo d'accordo e chiediamo agli elettori di dire no a queste leggi, ma no anche come cosa di fondo alle nuove ricerche energetiche, siano su terra sia su mare, eccetera eccetera. Allora, per capire questa questione, sulla quale io sono molto critico, ho scritto questa settimana sul Mattino, è partito un dibattito, ogni giorno ci sono interventi, perché la cosa riguarda innanzitutto il sud, e il sud è un po' la parte, la punta di lancia di questo no trivelle, di no allo Stato centrale su questo. Basilicata, la Puglia di Emiliano, la Campania di De Luca, la Calabria di Oliverio, sono veramente diventate la parte più motivata nel dire questa roba non passerà. Io mi chiedo che cultura dello sviluppo ci sia dietro, in un paese che il 77% del suo fabbisogno dipende dall'estero, e con quello che succede nei nostri paesi fornitori, mi sono posto il problema. Riflettiamo un secondo, non voglio fare lo sviluppista energetista, mi chiedo semplicemente, alla Scozia, che era l'equivalente del sud italiano in termini di sottosviluppo e gap nel Regno Unito, ha fatto bene o male il petrolio del Mar del Nord? Se ne vogliono andare, vogliono fare gli indipendenti perché vogliono le royalty solo per loro, senza più dividere con Londra. Alla Norvegia, che era anche lei il paese scandinavo meno sviluppato, ha fatto bene o male il petrolio del Mar del Nord, che loro addirittura hanno incatenato le royalties, le revenues in un fondo sovrano nazionale, che è diventato un attore fondamentale del riequilibrio dello sviluppo norvegese, e con cui investono tutto il mondo, hanno molte presenze anche in grandissime imprese italiane. Mi sono posto questo problema. Naturalmente può essere che sbagli. Per parlarne e capire meglio, abbiamo innanzitutto, per il fronte delle regioni antigoverno e no trivelle, Piero La Corazza, che è il presidente del Consiglio regionale della regione Basilicata. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie per l'invito. E Davide Tabarelli, che insomma, da molti anni che segue l'energia in Italia, sa che è uno dei più grandi divulgatori e ricercatori di energia nel nostro paese, presidente di Nomisma Energia. Grazie di essere con noi, Davide. Grazie, buongiorno. Allora, La Corazza, questo referendum è, come spiegava su Mattino ieri appunto il presidente della regione Basilicata, un no istituzionale perché il governo allunga le mani, o è un no a queste scelte energetiche? Allora, innanzitutto due precisazioni. La prima, non sono solo 10 regioni, ma la stessa Emilia Romagna, che ha votato no ai quesiti sì. referendari, per bocca del suo presidente Stefano Bonaccini ha detto che l'articolo 38 della legge Sblocca Italia e l'articolo 35 del decreto sviluppo, trivelle e mare per, certo. per capirci, sono sbagliati, confusi, inapplicabili e da cambiare. Poi non condivide lo strumento del referendum, esatto, ma però, mi pare che insomma, i referendum sono 10 adesso, senza però andiamo al merito. No, è importante stare al merito. Se anche un presidente di una regione che dice no ai quesiti dice che lo sblocca Italia, l'articolo 38, è sbagliato, io credo, diciamo, che nel merito abbiamo colto nel segno. Ma se fosse un problema di competenze, fareste le impugnative alla Corte. Voi chiedete agli elettori invece no alle scelte energetiche. Diciamo, mi consenta, diciamo, di correggerla, perché le impugnative dinanzi alla Corte Costituzionale già 7 regioni le sì. hanno presentate a gennaio. Voglio anche rammentarle che il decreto Sblocca Italia, decreto legge 133 sì. del 12 sì. settembre del 2014, arriva dopo un mese dalla votazione in prima lettura della riforma del titolo quinto esatto. della Costituzione, che accentra le competenze in materia energetica, e su questo le sottolineo, sono d'accordo, ma accentra anche quelle del governo del territorio. Quindi è anche probabile che quando la Corte Costituzionale si esprimerà sulle impugnative presentate dinanzi alla Corte Costituzionale da 7 regioni, come dire, la riforma del titolo quinto sarà arrivata quasi a conclusione, rendendo costituzionale in qualche modo ciò che era incostituzionale nella data, diciamo, in cui il decreto è stato approvato. Quindi vanificherebbe come dire, fino in fondo la forza delle regioni che hanno davanti alla Corte Costituzionale fatto valere le loro prerogative a Costituzione vigente. Aggiungo terzo elemento che sfugge: noi non siamo contro l'articolo 38. Noi siamo contro questa attuazione, come saprà, con il disciplinare attuativo, non è in discussione, non sono in discussione i titoli concessori già acquisiti o i procedimenti in corso ma è in discussione il fatto che quell'articolo prevede un piano delle aree e fin quando quel piano delle aree condiviso con la conferenza unificata, sottoposto a valutazione ambientale strategica, non è redatto, perché qualcuno deve fare il furbo e fin quando quel piano non c'è comunque concedere titoli per estrazione in terraferma e in mare? Questo è il punto di fondo, no furbizie, no no trip. Allora, il punto di fondo fino a questo momento è che oltre le impugnative, mi fermo perché poi abbiamo il traffico e torniamo con i nostri ospiti a approfondire, voi ci mettete il referendum perché volete che sia chiaro che non volete scelte riaccentrate su strategia energetica nazionale, perché c'è il piano delle aree, tutto quello che volete voi, ma chiedendo il referendum voi state spingendo emotivamente non sulla questione delle competenze, ma state spingendo sul no alle scelte energetiche. A me pare, posso sbagliare il mio punto di vista, che la sua risposta, che è tutta invece sulla contestazione delle competenze riaccentrate dello Stato e la difesa delle regioni, ammetta, dice no, noi i referendum li facciamo così, gli scateniamo la gente dicendo no alle trivelle perché vi vogliono distruggere l'ambiente. Può essere che sbagli, però lei mi ha risposto solo dicendo per noi è una questione di competenza. Naturalmente poi mi risponderà adesso, strade. Della belva. Eccoci tornati in diretta, 11:24 primi 28 secondi, abbiamo iniziato a discutere del referendum sull'energia, no trivelle, insomma, depositati da 10 regioni. Ci ricorda Pietro Piero Lacorazza, che è presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata, che ci ha spiegato da dove nasce questa iniziativa, oltre alle impugnative dello Sblocca Italia, del decreto sviluppo, sulle competenze riaccentrate del governo. Ci ha spiegato, da aggiungere anche, insomma, che anche il presidente dell'Emilia Romagna anche non ha condiviso i quesiti, ma comunque fa parte del fronte. Quindi, insomma, diventano 9 le regioni a guida PD contro il governo, più quella a guida Forza Italia e quella Veneto. Abbiamo ancora qualche sms però sulla questione che abbiamo sollevato prima, mutui, sì, case, questo, questo mi pare interessante, perché dice Pierluigi, scrive, molti mutui sono per liquidità e o ristrutturazioni. Ora, se è per liquidità vuol dire che siamo messi male, molto perché male. Molto male, diciamo, no? Se è per ristrutturazioni sicuramente è un elemento positivo, però questo, certo, mi pare un suggerimento interessante per cercare di trivellare il dato e disaggregarlo meglio, avvalendosi quindi dei bonus fiscali che ci sono per ristrutturazione edilizia. È probabile, però se sono mutui per liquidità sono cavoli amari, se sono diciamo, mutui per liquidità spariamoci, okay, esatto. Però ripeto, c'è una discrasia tra un più 55% al netto delle sur nei dati ABI e in più 3% dei dati fiscali. Però vabbè, detto tutto questo, allora Luca da Roma ci chiama già invece per il referendum sulle trivelle, no trivelle. Luca, buongiorno. Ho chiamato ancora prima l'intervento per poter parlare. Sì, eccoci. Allora, guardi, io sono assolutamente contrario a questi referendum, perché mi sembrano i soliti referendum in stile quello dell'acqua, no? L'acqua è pubblica, la vogliamo per noi. Ovviamente si è votato contro quel referendum, anzi in quel caso era un referendum anche quello abrogativo e quindi si erano cancellate alcune leggi e quindi ci troviamo sempre l'assegnazione delle contratti alle utility per trattativa privata e non per bando. Qua invece sicuramente si soliticherà la paura della gente sul pericolo degli effluvi dei petroli nei nostri mari. Come diceva lei, dipendiamo per il 77% dal fabbisogno estero, io non vedo quale sia il problema a tirare fuori quello che c'è nei nostri mari, nell'Adriatico, ma io sono anche a favore dell'estrazione dello shale gas e lo shale oil, che viene ulteriormente demonizzato da questi io li chiamo ecoterroristi, senza offesa. Ah, proprio lei è deciso, è secco in questa. Allora, ci ha dato un'opinione chiara. No, io aggiungo che, cioè, per chiunque conosca come è andato lo sviluppo in Scozia o in Norvegia negli ultimi 20 anni, la scelta di fare ricerche, prospezione e di estendere l'estrazione nei loro campi petroliferi marini, che non sono infinite, tra l'altro, quindi non stiamo parlando di paesi che abbiano chissà quale futuro di fronte, non è stata incompatibile con scelte molto spinte di energie rinnovabili e di tecnologie verdi. Chiunque sa o è andato lì e conosce, non solo ci sono pale di cui noi abbiamo già riempito e devastato il sud, quelle eoliche, ma ci sono gli impianti che sfruttano le correnti oceaniche, tanto per dirne un'altra. Quindi non è che stiamo parlando di un modello fossile preistorico, no, ad alta emissione. La trivellazione non è un effetto diretto sulla produzione, è un effetto diretto sulla calmierazione riduzione dei prezzi potenziali di medio termine, perché ovviamente rompe i monopoli, rompe gli oligopoli, quindi come dire, cioè, anche dal punto di vista economico, anche senza tirare fuori una goccia di petrolio o di gas, noi dobbiamo effettivamente capire che questa roba upstream, cioè diciamo a monte del problema, ha comunque effetti importanti, perché è un deterrente per esempio all'aumento del prezzo del petrolio impostato dal cartello dei produttori. Quindi prima ancora di inquinare qualsiasi cosa, c'è un'argomentazione economica, Oscar. Questo riduce il potere negoziale dei monopolisti del petrolio. Allora sentiamo Davide Tabarelli come la pensa su questa iniziativa delle regioni. Piero La Corazza ci ha ribadito: è innanzitutto una cosa istituzionale per fermare lo Stato, la riforma della Costituzione e così via. Però nel merito, Davide Tabarelli che dice? Ma il pasticcio è stato fatto nel 2001 quando abbiamo trasferito alle regioni la competenza in energia, in questa devoluzione che dimostra l'incapacità dello Stato di gestire una cosa complessa come la politica energetica, che deve rimanere nazionale in tutti i paesi complessi del mondo. Solo in Africa, dove la tribù si va a trovare gli sterpi per bruciare, scaldare l'acqua e fare le capanne, lì si può gestire localmente, ma un paese che dipende per l'80% quasi, adesso un po' meno perché si sta impoverendo, i nostri consumi, esatto, energetici sono tornati a quelli del 94, cioè oltre 22 anni fa, e qua c'è molta gente, tra l'altro all'interno del PD, questa componente ambientale, che è contenta di questo, cioè del fatto che noi raggiungiamo dei obiettivi di efficienza, di rinnovabili straordinari, che tra l'altro ci costano, per carità, ma questo potrebbe anche starci, ma il paese, questo è il dramma, il paese che si sta impoverendo in termini di reddito pro capita, di gente che non fa il mutuo di cui avete parlato, e l'impoverimento passa anche con questa gestione bizantina da parte delle regioni, che sono lasciate sole però a confrontarsi con la gente che non sa niente di queste faccende, che è giustamente terrorizzata, perché se demandiamo, che ne so, anche la politica delle strade alle autorità locali, fanno un referendum a Casalecchio di Reno se vogliono l'autostrada, o ad Altedo se passa la 14 o Sesto San Giovanni la tangenziale, loro dicono di no, ovviamente. Allora, e qua il problema è che non si racconta tutto: che cos'è il petrolio, cos'è questa tecnologia che lo estrae, come ha detto lei prima, la Norvegia, che è il primo paese al mondo per ricchezza, per questo fondo sovrano, per reddito pro capite, per cultura, per differenza di genere, per aspettative di vita. L'ONU fa l'indicatore di sviluppo del paese più ricco al mondo, da 10 anni c'è la Norvegia. La Basilicata, non si dice mai, che in questi anni sono state trasferite alla regione risorse nazionali, perché la legge, come in tutti i paesi del mondo tranne gli Stati Uniti, dice che quello che c'è sottoterra è dello Stato, perciò è mio, suo e dei lucani. Tra l'altro il sud è terra anche nostra, mia, e noi abbiamo il dovere di pretendere sviluppo di questa terra, che passa in minima parte anche nel fare le trivelle, fare infrastrutture, perché ad esempio l'altra sera Pittella mi ha detto che io volevo che la Basilicata fosse un groviera, perché dice che vorrei che facessero più produzione. Lì sotto c'è molto più petrolio di quello che lasciano estrarre. L'ENI può estrarre 100.000 barili al giorno da Val d'Agri, ma ne potrebbe fare 150 tranquillamente. Sotto potenza Monte Grosso, mi sembra, la concessione, c'è uno dei più grossi giacimenti, ma non possono fare esplorazione perché la regione ha vietato, e questa è un'invasione di competenze nazionali. La Total aveva un investimento da 1 miliardo di euro che per varie ragioni era ritardato per ostacoli, sempre non riescono a fare a Taranto, questo è colpa della Puglia, né in raffineria, dove c'è questo disastro industriale italiano di Taranto, si è contagiato la raffineria, non riescono a fare degli stoccaggi che sono dei pezzi di ferro dove mettere il petrolio, lì ha ritardato. Il prezzo del petrolio è crollato e adesso ha rimandato l'investimento, che è altri 50.000 barili al giorno. La Basilicata è stata trasferita 1 miliardo 600 milioni di euro in questi 16 anni. E qua entriamo però anche nelle cose positive, perché nel 98 è stato fatto l'accordo con l'ENI, poi il programma operativo Val d'Agri del 2003, poi il protocollo local content del 2012. Cioè pian piano, in maniera, ripeto, bizantina, si spendono questi soldi, ci sono dei casi positivi. E allora però la singolarità, adesso abbiamo un minuto di introduzione, poi facciamo il secondo giro con entrambi di voi, quindi Piero La Corazza e Davide Tabarelli. La singolarità è che proprio la Basilicata, malgrado tutto quello che sta ricordando storicamente, no, Davide Tabarelli, è quella che impugna la bandiera e dice adesso basta, ma adesso basta con queste cose perché ne volete accelerare fare, o adesso basta perché non ne volete più. E questa ambiguità è enormemente implicita purtroppo nella scelta di fare il referendum su, su queste questioni. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qui con i compari dei conti da Belva in studio alla Radio 24 di Milano, sulle 12.38, primi 22 secondi, e con noi Piero Lagorazza, presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata. Stiamo parlando dei quesiti depositati in Cassazione da 10 regioni contro le competenze riaccentrate in materia energetica sulle scelte strategiche nazionali. Non significa solo le trivellazioni marine o terrestri, significa tutte le opere infrastrutturali, e infatti ricordiamo il rigassificatore saltato a Brindisi dopo 11 anni di attesa inutile di British Gas, ricordiamo l'opposizione ferrea della Puglia all'eventuale gasdotto TAP dall'Azerbaigian tramite Grecia e Albania, ricordiamo il no di tutte le regioni interessate ai 5 tratti che in caso arrivasse il TAP dovrebbero convogliare il gas verso il nord Europa, salendo su Abruzzo, Marche, eccetera eccetera. Cioè, questo è un paese che va avanti con cose di questo genere. Però a Piero Lagorazza, alle obiezioni di Davide Tabarelli che avevamo prima sentito prima delle interruzioni, cosa risponde? Sì, innanzitutto vorrei aggiornarle la contabilità, perché oltre alle posizioni del presidente Bonaccini. Però aspetti, anche... mi risponde nel merito, no, prima di fare. Mi risponde, sì, c'è anche la regione Lombardia, però mi risponde. La 38 e la Sicilia che si è orientata diversamente. Poi le dico, il punto che il professor Tabarelli non affronta è perché l'articolo 38 della legge Sblocca Italia prevede un piano delle aree dove estrarre e dove non estrarre e a quali condizioni di sostenibilità eventualmente farlo, e con il disciplinare attuativo dell'articolo 38 si dice in attesa del piano delle aree comunque procediamo. Allora io vorrei il piano delle aree nel nostro paese, dove si estrae e dove non si estrae e a quali condizioni, e le aggiungo, il piano delle aree sarebbe un ottimo strumento anche per riflettere, probabilmente aggiornare la strategia energetica nazionale che, come lei sa, fu approvata dopo le elezioni, sì, politiche del 2013 da un decreto interministeriale dei ministri Clini e Passera. Andrebbe anche aggiornata. Ma secondo, secondo lei, sì, no, ci ha spiegato e rispiegato. Secondo lei, il bilancio dell'attribuzione alle regioni delle scelte energetiche fatto con la riforma D'Alema, per capirci, della Costituzione, che passò con pochi voti in Parlamento, ha un bilancio che è complessivamente disastroso per l'impossibilità e la conflittualità dei no che ha posto rispetto a scelte ragionevoli, come sembra indicare invece il piano delle aree che lei impugna? C'è questo bilancio, no, secondo lei, alle nostre spalle o no? Non impugno il piano delle aree, io chiedo un piano. C'è delle questo aree, bilancio da fare in questi anni in cui non abbiamo fatto quasi niente litigando, no, sulle competenze? Il professor Tabarelli giustamente sottolinea come la regione Basilicata, prima della riforma del titolo quinto, la riforma del titolo quinto che stabilisce che l'energia è materia concorrente, è del 2001, la regione Basilicata nel 98 e nel 99 costruisce un'intesa di programma con il governo sullo sviluppo di alcune infrastrutture e un accordo con le compagnie petrolifere per un'estrazione di 104.000 barili giorno, il più grande giacimento in terraferma in Italia e in Europa. Quindi prima del titolo quinto la regione Basilicata costruisce. Benissimo, un accordo. Ma il bilancio del titolo quinto ha visto le regioni fare delle scelte o non farle? Ma mi può rispondere a questa domanda? No. Mi consente, dal mio punto di vista ha visto lo Stato non farle. Ah, ecco. Perché la gran parte dei contenziosi dinanzi alla Corte Costituzionale sono dovuti alla materia energetica legata non tanto all'estrazione di idrocarburi, esatto, ma legate alle energie rinnovabili. Le chiedo e mi chiedo, sono le regioni e i territori che hanno costruito strumenti di incentivazione dopata e drogata per i grandi impianti di fotovoltaico o i grandi impianti di eolico in questo paese? No, gli incentivi, un momento, gli incentivi sono stati disposti nazionalmente. Se ci sono regioni coperte di pale è perché le regioni sono state attivissime e hanno vantato ai loro elettori la quota dei rinnovabili che veniva richiesta prima che venisse accesa e impegnata, anche se non c'erano poi l'alta tensione per per collegarla. E lei sa che è così. Lei sa che è così. È vero o non è vero? Le reti, non mi può dire di no su questo o no? Mi scusi. Sulle reti e sulle prenotazioni sì. che riguardano la disponibilità delle reti nazionale, su questo le regioni non hanno responsabilità, semmai hanno una responsabilità nel non aver individuato per tempo sì. con una grande accelerazione degli incentivi sul fotovoltaico e sull'eolico strumenti per stabilire le aree idonee. Ah, ecco, quindi la moltiplicazione delle aree, cioè il fatto che sia diventata una maniera per sostituire reddito di aree a fine agricolo con rendimenti diversi da incentivo pubblico, su questo la responsabilità delle regioni finalmente lo ammette che ce l'hanno. E vabbè, mi accontento di questo. Davide Tabarelli, cosa rispondiamo? Ma io non vorrei dei piani delle aree, mi giunge una conferma però che è sempre più burocrazia affidare il governo di queste cose complesse, perché a livello nazionale non si è stato in grado. Adesso questo del 38, dell'articolo 38, entriamo in meccanismi di diritto amministrativo sul quale probabilmente hanno anche ragione le regioni, perché occorre una modifica di una legge costituzionale. Detto questo, le regioni non ne vogliono sapere di sfruttare le risorse nazionali e cavalcano questi umori a livello locale, ma perché ci sono loro, poi sono i presidenti delle regioni che vanno a parlare con la gente che ha il terrore di queste strutture. C'è da dire però anche gli aspetti positivi, ripeto. La Basilicata ha fatto tanto, potrebbe secondo me fare molto di più, non mettere tutti questi limiti. Sfruttare meglio tutte le risorse che vengono trasferite, che ripeto sono royalties che sono dello Stato, il 10% del valore di un barile che adesso purtroppo vale $50 rimangono in Basilicata, e questo è patrimonio che va gestito meglio. La capacità di spesa non è stata così efficace, ma ci vuole del tempo, sono stati creati degli uffici capaci, delle competenze, ci sono dei comuni bravissimi come Calvello sì, lo conosco anch'io, infatti esattamente. Se lei va in Valcamastro, dove si dice che ci sarebbe tutto questo danno, parlano di trivelle in Valcamastro, la gente non sa neanche che una trivella, che non è una trivella, è un impianto di perforazione di altissima tecnologia, sta lì 6 mesi, fa questa perforazione, va giù 4.000 metri, poi mettono delle strutture, dei tubi che rimangono lì per 20 anni. Quelle non sono le trivelle, sono dei pozzi. Esatto. Esiste il caso positivo della Sicilia, che ha detto no a queste referenze, non vuole saperne, perché lì c'è una cultura un po' più industriale legata alle attività minerarie che lì sono millenarie. Allora, io credo che noi ce ne occuperemo per lunghi mesi di questa faccenda. Oggi abbiamo solo impostato il dibattito, e intanto io ringrazio Davide Tabarelli e Piero La Corazza. Sentiamo Ivano da Pescara, come la pensa. Ivano? È caduto Ivano da Pescara, sentiamo Ivano appena torniamo dopo l'interruzione. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Allora, eccoci qui tornati in diretta con il compare dei conti della Belva. Siamo riusciti a far dire qualcosa a Piero La Corazza della Regione Basilicata anche sul merito delle scelte energetiche, ma come avete capito, insomma, è una durissima battaglia sulle competenze ed è una battaglia interna al PD, come è evidente, visto che sono 9 su 11, se ci mettiamo anche l'Emilia Romagna, guida PD, quelli che dicono la tua riforma, Renzi, ci spoglia di competenze e così via. Ivano da Pescara, come la pensa? Se la strategia energetica nazionale va in mano alle regioni, vado a comprare le candele. Buongiorno compari. 2-3 pillole di merito. Siamo da una regione impegnata in prima linea in questa cosa. A Pescara c'è stata la più grande manifestazione nazionale non più tardi di qualche mese fa. Riconosciuta tutta la legittimità comunque a movimenti, persone eccetera per che carità, si impegnano e in buonissima fede lo fanno, insomma, con attenzione al territorio eccetera. Io segnalo tre aspetti. Il primo, velocemente, è che le motivazioni che vengono addotte per lo più sono motivazioni contro le trivellazioni, sono motivazioni che valgono universalmente. Allora, con l'etica di responsabilità dovrei dire rinuncio agli idrocarburi, certo, rinuncio al fossile, certo. Perché dal Golfo di Guinea va bene il petrolio e dall'Adriatico no. Ma il più di loro in buona fede ti direbbero infatti sì, rinuncio. Vabbè. No, alla manifestazione si va con gli idrocarburi. Esatto. Seconda cosa, le motivazioni sull'Adriatico, è un mare chiuso, eccetera, eccetera. la capacità di il rischio potenziale è infinitamente minore di quello delle 500 petroliere che ogni anno Venezia e a Ravenna a scaricare gli idrocarburi. Di quello nessuno parla. Terza e ultima cosa, nessuno si pone mai, ed è il grande assente di questo dibattito, è la sorte dei lavoratori dei distretti minerari. In Abruzzo abbiamo a Pescara e ad Ortona decine di aziende che occupano migliaia di persone in questo settore. Che ne facciamo di questi? Sono cose che nel dibattito dovrebbero essere presenti. Ivano, infatti io ho proposto al mattino, noi andremo avanti su questo, di fare una riflessione ad hoc, una conferenza, una stima di quelle fatte bene, cioè senza gonfiare, perché non c'è questione di pregiudizio, di cosa in termini di ricadute, non solo delle royalties locali di cui parlava Davide Tabarelli, ma di occupati per tutto l'indotto, in caso si potesse finalmente immaginare che il Sud sia coerente con quello che diceva la scelta strategica del piano energetico nazionale, perché l'idea era quella di fare del Sud, del centro-sud, l'hub meridionale del gas europeo. Allora, ricadute di occupati, crescita di PIL, indotto e così via. Ne parleremo, continueremo a parlarne, intanto chiudiamo questo capitolo perché abbiamo il nostro abituale capitolo finale con Renato Cifarelli sul non si può fare. Dopo quella meravigliosa lettera della FIOM di Reggio Emilia che invita le lettere, le diffida a rispettare la legge e dice scriviamo dei contratti contro la legge, cosa pazzesca, di cui non avete letto sui giornali nazionali, a noi è sembrata una cosa enorme la settimana scorsa, questa settimana cosa ci proponi? Ah, quest'anno parliamo di una cosa a cui noi non siamo assolutamente legati, le tasse. Allora, parliamo di tasse dai falliti. Perché? Dai falliti. Sì, dai falliti. Perché ho letto. Cioè, stiamo parlando delle tasse dello Stato su se stesso? Ma sì, non ho capito. Allora, sono quelle cose molto tecniche perché. Allora, ho letto un articolo sul Sole 24 sì. ore in cui c'era l'Agenzia delle Entrate che ha perso una causa in Cassazione. Perché? È una cosa un po' tecnica, però spero di riuscire a essere chiaro e a trasmetterla agli ascoltatori. Allora, le società presentano l'unico il 30 di settembre. Sì. Questa società era fallita nel corso di un anno, facciamo il 2015. Io non so se è fallita prima o dopo aver la scadenza dell'unico. Comunque non ha presentato la dichiarazione 2014. In quanto ha messo a fallimento, quindi era... Allora, cosa è successo? L'Agenzia delle Entrate ha fatto un accertamento induttivo basato sul fatto delle medie delle aziende di quel settore, eccetera, in quella provincia, eccetera, eccetera, sull'anno precedente, ed è andata fino in Cassazione, dove ha perso, per difendere il suo atteggiamento, il suo accertamento induttivo. Accertamento induttivo su un'azienda che era stata messa a fallimento, del reddito di un'azienda messa a fallimento. Quindi di un'azienda dove verosimilmente si recupera poco o niente. Allora, la cosa che secondo me fa un po' arrabbiare in questa cosa qua è che evidenzia che l'interesse dell'Agenzia delle Entrate è quello di emettere dei verbali, non di incassare. È perché dimentichi che gli incentivi dei funzionari centralmente e territoriali sono fatti con quell'indicatore lì. Diciamo che non lo dimentico. Lo so. Allora, il problema qual è? È che il fisco amico di cui ogni tanto si parla e tutte queste cose qua nasce da questo, cioè nasce dal fatto che tu abbia davanti delle persone che si comportano in modo normale. Non dico che debbano aiutarti, come succede all'estero, dove tu alzi il telefono, chiami il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ti dà una risposta e quella vale, perché lui poi ti manda una mail di conferma. In Italia il grande passaggio che abbiamo fatto questa settimana è che per le risposte ai quesiti hanno abbassato il tempo da 90 giorni a 60 giorni. Quindi voi, io dico sempre, porto sempre l'esempio della multinazionale dove c'è il direttore amministrativo che dice vabbè, ma chiedetelo all'Agenzia delle Entrate, questi gli dicono se volete presentiamo interpello, ci mettiamo 60 giorni eccetera eccetera. Uno che è abituato a alzare il telefono, a parlare col funzionario dell'Agenzia delle Entrate e avere una risposta immediata, quando poi deve fare delle scelte di localizzazione, secondo me... Sì, forse sceglie altro. Allora, il mio commento è che merita un giudizio questa agenzia delle entrate che arriva fino alla Cassazione. Tra l'altro, quanto gli sarà costata questa roba pur di beccarsi a casa? Noi costa, perché gli avvocati sono quelli. Esatto. Per un accertamento induttivo di un reddito di un'azienda ufficialmente fallita, merita un solo commento da parte. Basta! Basta! Basta! Scusate. No, però Oscar, devi dire, il ministro Padoan ha appena incontrato i fondi sovrani qui a Milano la settimana scorsa, dicendo che l'Italia è un paese fiscalmente amico dei grandi investitori e che è un posto ma dei grandi sì, ma infatti sta quello che abbiamo già parlato diverse volte. Mi permettetemi di dirmi che come titolare di microimprese, il fatto che la pianificazione fiscale nel nostro paese venga consentita solo a gruppi che hanno fatturato solo sopra i 10 miliardi, io lo considero una cosa, per cui lo ripeto, questo è il mio giudizio, perché io piccolo imprenditore che con altri molto meglio di me, ma perché non devo averla solo a 10 miliardi agli amici degli amici di fatturato? La diamo alla pianificazione fiscale? Basta! Basta! Basta! E questo è un governo di sinistra, per di più, solo ai 10 miliardi? Basta! Basta! Basta! Perché sia chiaro, allora Maurizio da Milano invece ci chiama. Ma no, scusate, ma da, l'avesse fatto Berlusconi, lo do solo ai multinazionali, ai gruppi di investimento, alla pianificazione fiscale. Ce l'aveva fatto per lui. Ma da, ma appunto, ma ragazzi, no, lo facciamo 10 miliardi perché così venite e voi pagherete di meno. Ti spiego ma perché è un governo di sinistra queste cose, perché ovviamente gli interlocutori di questo livello sono soltanto fondi sovrani e stati e politica. Ho capito, è perfettamente logico. È perfettamente logico, però deve essere coerente con un'agenzia d'entrata che non va in Cassazione per fare gli accertamenti induttivi per le aziende fallite. Allora mettiamoci un po' di buon senso, io sono per la pianificazione fiscale offerta a tutti coloro che vogliono investire moltissimo, ma anche un pochino ai quelli che reggono l'Italia e santo Dio benedetto. Maurizio da Milano invece ci chiamava ancora sulla questione dei comitati del no trivelle eccetera eccetera. Maurizio. Sì, buongiorno. Eccoci. Al di là delle trivelle, il vero problema è che questo è un paese in cui i comitati del no sono probabilmente più numerosi della maggioranza del paese. C'è un'inversione della democrazia, per cui piccoli gruppi sparuti con interessi particolaristici non consentono a questo paese di fare N infrastrutture. Vogliamo parlare degli 80 chilometri tra Bologna e Firenze che dal 96 non sono completi perché N comitati del no nei comuni attraversati dall'autostrada hanno bloccato a più riprese i lavori? Vogliamo parlare dell'elettrodotto di della Terna nella provincia di Belluno, dove un solo comune ha aderito al progetto e tutti gli altri hanno comitati del no da 50 persone che bloccano un intero lavoro che serve alla provincia ed evita i blackout da 5 giorni come all'inverno scorso? Cioè, è una roba la cultura NIMBY, la cultura NIMBY. Però qui si risolve con un tema economico, basta far pagare a chi il veto a chi lo propone, semplicemente imponendogli i costi dell'esternalità negativa. È oppure dargli dei soldi a quelli dove passa. Di solito si fa così, infatti si vede il debito che abbiamo. Le opere di mitigazione ambientale sono una delle rovine di questo paese. Allora, i quattro compari dei Conti della Belva, cioè Oscar, Mario, Carlo Alberto, Renato, vi saluto, vi auguro un buon sabato, continuate con Radio 24 e soprattutto lunedì alle 8:15 io e Alino Milan cominciamo una nuova trasmissione da lunedì al venerdì tutte le mattine, attenti a noi due, attenti, per attenti corroborarvi la mattinata. Ma che Rai, ma che Radio 1 e Radio 2, Radio 24, io e Milan, attenti a noi due alle 8:15.